9 in punto. La versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon mercoledì 21 di aprile. Oggi tentiamo un'analisi non solo per addetti ai lavori né per appassionati di maschere e pugnali di ciò che avviene all'interno della PDL in vista della direzione di questo partito che si riunisce domani per la prima volta da che esiste, verrebbe di dire. Si riunisce a seguito delle scosse che all'interno del PDL sono state impresse dalle iniziative dell'onorevole Gianfranco Fini. Dopo le regionali, il lungo confronto polemico, spesso con dissensi molto espliciti su temi come la bioetica, gli anni di cittadinanza, gli anni necessari di residenza in Italia per gli immigrati per conferire loro la cittadinanza e così via, si è arrivati a una specie di resa dei conti, perché Berlusconi ha perso la pazienza ultimamente, ha detto a Fini: senti, io non sopporto più molto questa tua azione quotidiana in cui sei diventato praticamente il principe di coloro che non la pensano come me su tutto, deciditi o dentro o fuori. È sembrato a un certo punto che fosse proprio una pressione per andarsene fuori dal partito, cioè per accompagnarlo fuori dal partito, se non che ieri l'onorevole Fini ha riunito 51 tra deputati e senatori ex di Alleanza Nazionale e ha detto: no, non levo il disturbo, quindi rassegnatevi, io continuerò a organizzarmi in corrente interna e a dissentire, non leverò il disturbo. Dall'altra parte, più di 70 tra deputati e senatori parlamentari, sempre ex della componente di AN, hanno firmato un altro documento, tra cui tutte le figure storiche di maggior rilievo di seconda fila di AN dopo Gianfranco Fini, in cui nettamente si dice no alla corrente, oramai PDL è nato, nessun passo indietro, nessuna distinzione, non la pensiamo come te. E quindi sì alla monarchia, vorrebbe dire, di Berlusconi. Questi sono gli elementi che tutti voi sapete. Cerchiamo di capire se c'è qualche cosa di più, o meglio, c'è di sicuro qualcosa di più, però tentiamo di analizzare gli elementi culturali di che cosa si intravede di possibili diversi progetti di una destra che contemporaneamente non smarrisca, se possibile, un qualche riferimento alle destre culturali che hanno impregnato di sé la storia dei due secoli e più che abbiamo alle nostre spalle, e dall'altra anche che abbia una qualche coerente aggancio almeno a qualcuna delle espressioni in cui la parola destra ha preso forma all'interno della storia italiana, perché poi alla fine io credo che mai come a destra la parola tradizione dovrebbe volere dire qualche cosa. Poi può essere pure che io mi sbagli e che nel dibattito della destra italiana oramai non ci sia niente né di riferimento europeo né di riferimento italiano, in quel caso staremo parlando di una pura battaglia di potere personale, sicuramente può appassionare molto, può magari essere anche l'orizzonte della politica italiana, cioè essere priva di riferimenti culturali italiani ed europei, però certamente diventerebbe materia di puro scontro di potere. Noi tenteremo l'analisi della prima cosa oggi, e infatti in questa prima metà della trasmissione io gli sono molto grato, ha accettato di essere con noi innanzitutto Pietrangelo Buttafuoco. Buongiorno Buttafuoco. Buongiorno. Buttafuoco, giornalista, scrittore, io ce l'ho avuto come compagno di banco per anni, dichiaro che sono un suo assoluto estimatore, anche se spesso Pietrangelo Buttafuoco mi ha scosso negli argomenti di cui spesso sono convinto, cioè quelli per esempio dell'Occidente, nella libertà, nella liberal democrazia. Pietrangelo Buttafuoco è uno di quelli ai quali riconosco il merito di avermi spesso attraversato con un dito acuminato l'anima per farmi pensare quante contraddizioni ci sono in queste definizioni che usiamo. E allora proprio a lui chiedo innanzitutto: Pietrangelo, in questo dibattito quali elementi è possibile trovare culturali di tradizione italiana di destra tra Berlusconi e Fini, ed europea se possibile? Di che tipo? Beh, di tradizione sicuramente quello che salta agli occhi oggi, proprio oggi che è il 21 aprile, è che per esempio una destra al governo, una destra che quindi si trova nella responsabilità anche di custodire la presenza istituzionale dello Stato, proprio oggi 21 aprile è una data che corre come un'altra, come se non ci fosse nessun significato dietro a questa stessa data, e la dice lunga nel fatto che per esempio nessuno, né il Presidente del Consiglio, né tantomeno il Presidente della Camera, né tantomeno le altre istituzioni ricordino oggi la fondazione della città di Roma, che non è una città qualsiasi, ci fa capire come in realtà questa destra al governo tutto è fuorché quella che noi immaginavamo fosse la destra di tradizione, una destra che quindi sa spiegare bene come organizzare le caserme così come le scuole, una destra che sa spiegare bene come preoccuparsi della trasmissione dei valori, della formazione, della costruzione proprio della figura stessa del cittadino e quindi dell'identità. Quella con cui noi abbiamo a che fare quindi è una destra tutto sommato, lo dico col sorriso, sovversiva, nel senso che ovviamente si occupa nell'ambito dell'anarchia dei valori, nell'ambito dell'organizzazione veloce delle cose, quindi delle trasformazioni, quella che è stato poi il grande trauma, la formazione stessa del bipolarismo, bene o male un bipolarismo a disposizione degli italiani, che forse ha perpetuato la nostra anima faziosa, rissosa, di Guelfi e Ghibellini alla bisogna, Guelfi un tanto, Ghibellini altrettanto, ma senza mai un vero radicamento, perché possiamo dirlo, sia dall'una che dall'altra parte manca quell'idea di grandezza che presuppone il radicamento alla tradizione. Andiamo per esempio al caso di questo trauma che stiamo vivendo in questi giorni, il fatto che il PDL, quindi il Popolo della Libertà, stia per attraversare chissà come una scissione o comunque una rottura. Da un lato vediamo ovviamente Berlusconi, uno che è cresciuto da sé, che ha costruito la propria fortuna sociale, culturale e politica proprio sulla sua stessa persona, dall'altro lato invece è tutto un codazzo di nuovi arrivati che hanno partecipato a questa stagione, dove al loro interno sta nascendo una realtà che sembra quasi da tutti immaginata come una bestemmia, una realtà quasi di sfida all'interno dello stesso berlusconismo. Ora, io credo che ovviamente i cosiddetti amici di Fini, che sono tra l'altro nuovi amici, particolarmente dobbiamo sottolineare come anche culturalmente quelli che adesso sono con lui, ovvero i Granata, Flavia Perina, Umberto Croppi e gli altri, paradossalmente sono quegli stessi che fino a 11 anni fa, quando c'era ancora il Movimento Sociale, erano i suoi oppositori, erano i suoi feroci oppositori, erano cioè quelli che avevano saputo inventare, creare una realtà assolutamente curiosa, intrigante, interessante, qual era la nuova destra. E cioè nello stesso momento in cui Fini ancora proclamava, aderiva a quella immagine piuttosto sgangherata del fascismo del 2000, loro invece erano quelli che avevano saputo traghettare un'intera comunità, un intero mondo, il movimento sociale, e non a caso sottolineo la parola movimento sociale per significare meglio l'identità di sinistra di questo gruppo, che invece voleva uscire fuori dal nostalgismo. Ovviamente alla politica si deve tutto e nella politica è ovvio attendersi qualsiasi cosa. E quello che ci interessa sottolineare adesso è come questo gruppo, che culturalmente è sicuramente molto più curioso, molto più interessante di quanto possa essere il berlusconismo in senso stretto, adesso si trova a fare i conti con un leader che probabilmente non condivide questo stesso corpo di idee, a maggior ragione se questo corpo di idee, che sono quelle appunto dei Fabio Granata, degli Umberto Croppi, di Flavia Perina, il mondo che si riconosce nell'effervescenza del secolo d'Italia, di fare futuro, sia effettivamente lo specchio di quello che il leader Gianfranco Fini vorrebbe pensare. È significativo infatti che tutti i suoi uomini, quelli che una volta era la lunga sequenza dei bracci destro, adesso siano invece contro Fini. È significativo il fatto che un certo linguaggio, una certa struttura mentale, perfino il logo, ricorderà che Fini andava sempre in giro con il logo, con la spilletta delle frecce tricolori, è sparita ormai dalle sue pubbliche uscite. È sparito qualsiasi riferimento ad una parola che potrebbe evocare chissà come un'identità, a maggior ragione noto tristemente come oggi, 21 aprile, come dire, nessuno ha ricordato questa coincidenza. Però la domanda che faccio io a Pietrangelo Buttafuoco, proprio oggi 21 aprile, come è possibile che io mi ci raccapezzi se coloro che erano gli interpreti di quell'effervescenza che dicevi tu, con aloni anche di capacità mistica, iconologica, identitaria, molto forte nella parte della destra sociale, oggi invece diventano non solo i consiglieri, gli amici, come hai detto tu, di Fini in questo Basso di ferro con Berlusconi, ma diventano anche poi in molti casi i più convinti sostenitori di una specie di incarnazione di una destra moderata, di una destra neoborghese, rassicurante verso i valori della bioetica dell'integrazione, quasi restia a forme di neogollismo, perché anche il neogollismo sarebbe in definitiva poi troppo, troppo carico di un qualche significato autocratico. Ecco, allora, cosa è avvenuto in loro? È avvenuto che a contatto col fenomeno irriducibile dell'anomalia Berlusconi hanno fatto una riflessioncina su come in Italia l'eccesso di egarchia porta all'anarchia e alla fine sono diventati più conservatori neoborghesi, e, oppure no, semplicemente è una modalità, come dici tu, attraverso cui la politica, da cui ci si può aspettare di tutto, prende oggi queste vesti, avendone avute altre ieri, però alcuni di loro avevano una dignità intellettuale, una coerenza che a volte li esponeva anche a belle botte, se posso dire, quindi sarei un po' stupito, e prende oggi questa veste per prenderne poi magari domani un'altra nel caso in cui Berlusconi finisse fuori dal ring. Cos'è successo a loro? Io vorrei semplificarlo a me stesso il problema e dico questo: in Italia non siamo mai usciti effettivamente dalla guerra civile, ancora oggi noi non siamo usciti dalla guerra civile che ha fatto seguito al disastro e alla sconfitta della seconda guerra mondiale, per cui non riusciamo mai a dirci chiaramente fino in fondo come stanno le cose proprio dal punto di vista della politica, a maggior ragione in questi ultimi 5 anni, a maggior ragione con le espressioni più consolidate del governo berlusconiano, l'Italia paradossalmente ha perso la sovranità nazionale, quindi non siamo più nella serenità di chiudere non solo con la guerra civile, ma anche con quelli che dovrebbero essere i chiari confini di campo dove muovere e rimuovere le macerie del Novecento. Mi spiego, noi non siamo mai riusciti a venirne fuori da un equivoco. La tradizione del movimento sociale, la tradizione della destra nazionale, il riferimento culturale, politico di questa realtà, non a caso ieri Fini ha citato ancora una volta Ezra Pound, che ricordiamolo era un poeta americano rinchiuso in una gabbia dai soldati americani a Pisa, è quello di una tradizione tutto sommato, anzi sicuramente di sinistra, che nasce da una scissione col Partito Socialista, cammina sulle spalle di un grande capopopolo della sinistra socialista come Benito Mussolini, e che ha dato nel corso del tempo, per arrivare fino a oggi, se ancora ieri Fini cita Ezra Pound, un'unica traccia, che è quella di costruire un progetto di emancipazione dell'individuo in un'ottica che non è certamente quella del linguaggio antico del proletariato, ma nell'ottica della comunità nazionale, e che quindi di costruire nel perimetro di un territorio un'emancipazione per i propri cittadini, per gli italiani, quindi un progetto assolutamente di sinistra. E se non usciamo da questo equivoco, e se quindi ogni volta ci meravigliamo che da destra arrivano idee di sinistra, non riusciremo mai a capacitarci su quello che può accadere nell'alchimia della politica. E a leggere soprattutto la storia italiana. Certo, perché è ovvio che Giovanni Gentile, che era il filosofo di riferimento dell'Italia tra le due guerre, che fu un grande filosofo e un grande ministro della scuola, è ovvio che aveva delle posizioni totalmente laiche, totalmente ghibelline, totalmente avanzate rispetto a quelli che potrebbero essere i nostri parametri. Se vogliamo essere proprio sfacciati, dobbiamo raccontare dei fatti ben precisi. Gli studenti delle scuole italiane nell'Italia tra le due guerre tranquillamente potevano leggere il Corano, perché era stabilito fra i testi dalla riforma della scuola Gentile, e l'Italia di allora, l'Italia tra le due guerre, che era un'Italia ovviamente con una dignità di relazioni internazionali molto più ampia di quella che possiamo avere oggi, si permetteva il lusso di editare con testo a fronte in arabo e in italiano il Santo Corano, facciamo un esempio. È ovvio che quell'Italia era quella che in una strategia internazionale riusciva a dialogare col mondo intero con delle prospettive che non erano quelle dettate dalla chiusura gretta propagandistica limitata alla conquista del guadagno del consenso giorno dopo giorno. E quindi non ci si deve meravigliare quando Fini fa certe affermazioni, perché quelle sue affermazioni derivano da una consuetudine culturale, politica, molto antica, che era inevitabilmente di sinistra. Ora, io ti chiedo solo un'ultima battuta breve, io non ti chiedo previsioni e pronostici, perché qui non siamo allo stadio, non c'è la partita, ma Berlusconi, che rispetto a tutto questo discorso che abbiamo fatto, un discorso di premesse culturali, incarna probabilmente l'autonomia della politica possibile al più alto livello, anche al più spregiudicato livello, dividendo, combattendo, ma vincendo nel suo dividere e combattere. Berlusconi, rispetto a tutto questo, secondo te, in questa fase, che diavolo di rinvio o di rimando possibile a un qualunque pezzo tradizionalmente riconoscibile di destra sta incarnando, o è semplicemente irriducibile a tutto, anche nelle sue prossime trasformazioni? Secondo me Berlusconi rientra perfettamente, che non è un'offesa, in quella categoria che ben conosciamo degli arci italiani. Lui è un arci italiano che sta evitando accuratamente di fare quegli errori che altri prima di lui hanno fatto e hanno poi pagato. È uno che l'anima di questa nostra storia, di questa nostra identità, riesce a fiutarla più che a incarnarla, a fiutarla e quindi a riadattarla. Se vogliamo usare una metafora dell'enciclopedia Treccani, lui è quello che veramente sta trasformando la politica in prassi, nel senso che si guarda bene dal farsi ingabbiare in quelli che dovrebbero essere dei meccanismi da riflesso condizionato ideologico. Lui si fa trovare là dove nessuno mai se l'aspetta. Non scordiamoci che tutti noi che facciamo questo mestiere, noi che siamo giornalisti, noi che dobbiamo dedicarci a fare le didascalie alle giornate che passano, non eravamo nessuno di noi riusciti a capire cosa sarebbe successo il giorno dopo le elezioni. E se vogliamo ancora utilizzare l'esempio usurato della Lega, è significativo che nessun giornale del Nord, nessuno dei tanti autorevoli importanti giornali del Nord, ancora fino a ieri riusciva a raccontarci bene un protagonista come Flavio Tosi, di cui nessuno sapeva niente, perché sappiamo perfettamente che nella nostra pigrizia, nel nostro riflesso condizionato, nella nostra pochezza metodologica, ci limitiamo a fare nel lavoro di inviati l'indagine, l'inchiesta, le interviste a quelli con cui ci diamo del tu, e mai riusciamo a decifrare la realtà. Ecco, Berlusconi per esempio è quello che dissemina di trappole chiunque voglia fare questo mestiere, perché riesce a fiutare più che incarnare l'identità degli italiani e a conformarsi a quella. Colui che è laddove non te lo aspetti, che era una delle caratteristiche nell'animismo dell'incarnazione dell'inaspettato, che prevale su tutto ciò che è razionalmente prevedibile dall'uomo. E ohimè, mi sa che Berlusconi ha un po' ragione, Pietrangelo Buttofuoco ha questa capacità proteiforme di stupire, cambiare forma. Blob è una specie di è delle sue incarnazioni. Grazie Pietrangelo Buttofuoco per questa parte che a molti nostri ascoltatori, lo sapevo, l'avevo messo in conto, è sembrata non troppo attinente, e invece secondo me è una delle chiavi per tentare di dare una lettura diversa di quello che avviene, un po' meno prosaica. Adesso nella seconda parte andremo alla lettura più prosaica, e non sto dicendo che io preferisco questa, sto dicendo che secondo me un po' di sana analisi della tradizione delle diverse destre italiane serve a raccapezzarcisi, o a tentare almeno di proporre delle chiavi di lettura di quello che avviene. Altrimenti, scusate, se la riduciamo a chi pensa che Fini abbia più palla di Berlusconi e gli debba succedere se regge in piedi malgrado la prepotenza e la forza di Berlusconi, e chi pensa invece che ne abbia di meno, è un tipo di dibattito che a me appassiona molto meno, che magari è anche più importante, ma a me non appassiona. Eccoci tornati in studio per questa seconda parte della versione di Oscar, dedicata all'approfondimento delle tensioni in casa PDL tra Fini e chi si riconosce nella sua posizione, Berlusconi abbastanza scocciato oramai di queste continue quotidiane messe a punto di una antilinea rispetto alla sua da parte di Gianfranco Fini, e quindi in preparazione della direzione di domani queste firme, da una parte tra gli ex di AN 55, 36 Finiani alla Camera e 55 pro PDL, leggo i numeri da pagina 3 del giornale di oggi, al Senato 14 Finiani mentre 29 pro PDL tra i 46 senatori, quindi il giornale titola Fini in minoranza anche tra gli ex di AN. L'altro titolo del giornale, che picchia duro, il giornale di Feltri, si è specializzato nella parte di questo quotidiano di destra manganellatrice. Il partito dei frondisti non andrebbe neanche in Parlamento, continua a essere il titolo del giornale di Feltri. Pagina dopo, titolo del giornale di Feltri, Fini rinnega ancora se stesso, le correnti erano metastasi. Altro titolo del giornale di Feltri, il vascello finiano salpa con le casse vuote. Altro titolo del giornale di Feltri, Silvio non ci sta, se Gianfranco resta si adegua, altrimenti fuori. Insomma, come avrete capito, la parte muscolare del Popolo d'Italia, attualmente denominato Il Giornale, diretto da Vittorio Feltri, Popolo vuole prendere a calci Fini e a dire quella è la porta, vattene via, non rompere le scatole, stai muto e che i tuoi si levino dalle scatole. Una sana articolazione di un confronto democratico attraverso un libero esercizio dell'autonomia e dell'indipendenza del giornalismo da qualunque interesse padronale e politico, mi verrebbe da dire. Sono un po' sarcastico, ma sapete anche che non riesco mai a nascondere i miei conflitti di interesse. Anche in questo caso io ho un conflitto di interesse, nel senso che fui licenziato da Feltri dicendo che non sapevo obbedire abbastanza, e visto la concezione che ha lui dell'obbedienza, mi dispiace, ma preferisco il libero esercizio della critica, che è consustanziale al giornalismo. Chi obbedisce si metta una divisa, e io l'ho avuta nella vita, ma sono due cose un po' diverse. Perdonate, ma a volte anche l'aria che tira e come si scrive e si parla in un certo mondo dice molto di quel mondo. Ora torniamo invece a occuparci un pochino più di un'analisi più seria, e quindi mi taccio con questa mia parentesi personale. Gli ospiti di questa seconda parte sono, da una parte, il direttore del Tempo Mario Secchi, buongiorno direttore. Buongiorno a voi. E dall'altra Adolfo Urso, viceministro per allo sviluppo economico, buongiorno Urso. Buongiorno a lei, a tutti gli ascoltatori e al direttore del Tempo, buongiorno. Urso, spesso questi microfoni noi lo invitiamo per parlare di imprese nel mondo, perché è uno di coloro che a mio giudizio nel governo più si dà da fare per il sostegno all'internazionalizzazione delle nostre economie, e sull'export c'è il più della crescita del nostro paese. Oggi invece lo abbiamo chiamato perché ci siamo un po' sorpresi qualche sera fa, quando anche lui si è scaldato in televisione in quel confronto interno venerdì sera. Le chiedo, è una pura prova di forza, oppure ho sbagliato nella prima metà parte a parlare anche della trasmissione, a parlare di qualche riferimento culturale per capirci un po' di più? Se si riduce a una prova di forza, non finirà che chi ha il bastone tra le mani vi indica la porta e vi obbliga a non stare dove siete troppo molesti? Perdoni l'eccessiva sincerità delle domande. Ma di questo non è certamente una prova di forza, ma è semplicemente un dibattito fra coloro che hanno fondato un partito insieme, consapevolmente, che ha avuto peraltro successo, il Popolo delle Libertà, scegliendo tra l'altro una denominazione che caratterizza la nostra vita, la nostra alleanza politica, quello della libertà. La casa oggi è il Popolo delle Libertà, ma noi iniziamo nel 94 col Polo delle Libertà e del Buon Governo, di cui faceva parte Alleanza Nazionale, poi proseguimmo non a caso con la Casa della Libertà, e poi abbiamo fondato consapevolmente, su iniziativa di Silvio Berlusconi, ma con il nostro pieno consenso e certamente con quello di Gianfranco Fini, il Popolo della Libertà. E la libertà si basa innanzitutto sul rispetto degli altri, delle loro idee, e sul confronto libero tra le idee in un partito che fa riferimento ai valori fondamentali del Partito Popolare Europeo, di cui noi siamo parte integrante, per esempio con la Fondazione Fare Futuro, che è quella che nelle European Ideas Network, il network delle fondazioni popolari europee, è riferimento in Italia, dalla libertà di espressione e per scelta di Silvio Berlusconi, sin dalla fondazione di Forza Italia e del polo delle libertà, elemento caratterizzante della nostra vita, del nostro impegno, della nostra missione politica. In questo confronto ovviamente noi rispettiamo le idee di Feltri, le idee di chiunque altro le esprima con la propria faccia, ma abbiamo anche il diritto a poter esprimere le nostre ed avere il rispetto per le nostre idee, che noi ci auguriamo si possano confrontare negli organi di partito per poi definire insieme qual è la linea politica su quegli aspetti che non abbiamo già definito e consacrato con gli elettori. Per intenderci, il programma sancito con gli elettori per noi è Bibbia, cioè non si discute, va solo applicato per la parte che resta nei 3 anni che rimangono della legislatura. Quello che non è consacrato con gli elettori si può discutere liberamente, liberamente confrontare. Dire meglio. Io chiedo al direttore del Tempo, che era con noi anche nella prima parte, e sono colpevole perché io non ho visto il suo nome, quindi credo ci fosse solo Pietrangelo, mi scuso con lui. Chiedo al direttore del Tempo, come si può chiedere un'articolazione in corrente e quindi con regole di confronto come quelle dei partiti della Prima Repubblica, in cui c'erano dissensi anche molto forti, ma senza mai che mettessero a rischio poi il fatto che c'era un partito riconoscibile con un'identità di fronte agli elettori. C'era una capacità di confrontarsi, ma anche di limitarsi nelle espressioni e nei giudizi. Come si fa a chiedere l'assunzione di questa veste a una forza politica come quella guidata da Berlusconi, che è consustanzialmente carismatica e basata sul principio, insomma, dell'obbedienza al capo, che è quello che poi ogni volta in pochi giorni riesce a fare la differenza nelle elezioni? È possibile immaginarlo davvero, direttore? Guarda, allora tu hai toccato il punto. Il modello ideale sarebbe stato quello della vecchia DC, parliamoci chiaro, che era un partito straorganizzato in correnti e delle diverse posizioni poi faceva sintesi. Però quel partito era, diciamo, un partito figlio della storia del Novecento, non ancorato per forza alla figura carismatica del leader, no? La DC ha avuto tanti segretari, alcuni grandissimi, altri meno grandi, alcuni molto forti dal punto di vista simbolico, altri un po' più transeunti, diciamo così, anche nella cronaca storica. Anzi, altri scelti proprio per lunghi anni perché non decidevano più che decidere, Forlan, insomma. Però lì era il corpaccione del partito a dare un senso a tutto. E col PDL adesso e con Forza Italia prima è la stessa N, mi sia concesso questo di dirlo, con Fini, perché Fini era il leader carismatico di AN, non è che era un democratico esponente venuto fuori da un confronto di correnti. Fini era un leader carismatico di una fazione, come Berlusconi lo era di un'altra. Poi è nato il PDL, ma il PDL è nato con l'imprinting appunto di un leader forte come Berlusconi. Nasce una corrente, mi verrebbe da dire va bene, nel senso non mi scandalizza tutto questo. Il problema semmai è un altro, e cioè che nasce una corrente che ha come leader ispiratore il Presidente della Camera, che è Tertium Inter Pares, e che ha un ruolo istituzionale all'interno appunto di uno dei due rami del Parlamento. È possibile fare contemporaneamente il leader di una corrente di minoranza e il presidente della Camera che fa l'ordine del giorno, che decide i lavori, che influenza in maniera netta l'andamento legislativo e dunque ciò che poi alla fine della fiera propone il governo per il voto, punto di domanda? Io credo che questo sia un problema. Aggiungo che probabilmente è stato un errore dare a Fini la presidenza della Camera, non perché Fini non lo sappia far bene, ma perché dopo meno di 2 anni circa Fini è tornato ad aver voglia di fare partito. E questa è ovviamente una palese contraddizione nel meccanismo politico, che vedrete produrrà dei problemi perché è chiaro che tutto questo poi avrà un riverbero e nel partito e soprattutto nei lavori parlamentari. Cioè la nascita della corrente e la contemporanea assunzione di ruolo, di fini anche dentro il PDL in maniera così netta, direi quasi a gamba tesa, legittima, non voglio dire che questo non lo potesse fare, però di fatto sarà una pietra nell'ingranaggio legislativo, politico e così via. Beh, quello che sta nascendo ai miei occhi è un grandissimo papocchio che non va bene, che finirà per creare problemi alla vita. Io sono molto d'accordo su questa conclusione del direttore del Tempo, perché credo che troppi elementi restano compressi sia nella formula che Fini propone a Berlusconi e agli altri del PDL di assumere, sia in realtà nel non detto di cui resta contraddittoriamente carica la figura di Fini per questa duplicità, da una parte dello scudo istituzionale e dall'altra della rivendicazione di libertà. Quindi io temo che ci siano un po' troppe contraddizioni. Dall'altra parte, si vede anche dai messaggi in arrivo dei nostri ascoltatori, c'è una reazione molto forte dell'elettorato di centrodestra che ha continuato a dare fiducia a Berlusconi, che dice: abbiamo varcato il limite oltre il quale diventa un boomerang questa forma di polemica, è per questo che Berlusconi e la maggioranza di noi dicono a Fini: se non sei d'accordo non ci proporre una DC, visto che te e i tuoi non vi esprimete con la moderazione della DC, ci picchiate in testa, allora andate fuori, perché altrimenti ci rimettiamo di fronte all'elettorato più che guadagnarci. Elemento secondo me degno di una qualche considerazione anche questo. Allora io inizierei con un paio di telefonate, prima telefonata, poi andiamo sull'informazione circolazione stradale e poi andiamo questo secondo interrogativo su il boomerang rappresentato se non si scioglie la contraddizione. Iniziamo le telefonate con Cristina da Grosseto. Prego Cristina. Sì, buongiorno, saluto tutti. Dunque, secondo me Fini, più che fare una corrente, sta facendo una grossa e seria riflessione politica derivata dalle ultime elezioni. Non ci scordiamo che nelle ultime elezioni regionali il PDL non ha vinto, ma ha perso 2.400.000 voti. Chi ha vinto è stata la Lega. Allora, secondo me, sempre naturalmente, Fini si rende conto che il PDL sta perdendo la sua identità e che l'identità del PDL è diventata quella della Lega. Allora Fini cosa vuol fare semplicemente? Vuol ridare un'identità autonoma e sua al PDL. Cioè, qui nessuno sta vedendo, ma Fini l'ha visto bene, che Berlusconi non è più quell'uomo forte di un tempo, ma che è debole, perché uno che si appoggia alla Lega, che si appoggia a un altro partito, non è forte, ma è debole. Grazie. Quindi, Cristina, la tua tesi è la Lega, oramai che è consustanziale alla vittoria di Berlusconi, non è più Berlusconi l'elemento trainante, senza Lega non andrebbe più da nessuna parte. Per evitare questo o per bilanciare questo, si spiega Fini. Le 9:48, 12 secondi, eccoci per l'ultima parte della trasmissione sul problema Fini-Berlusconi, ancora due rapide telefonate, cominciamo con Luca da Napoli. Prego Luca. Buongiorno dottor Giannini, io volevo soltanto brevemente dire la mia opinione su questa questione di Fini, che a mio sommesso parere è solo una questione di narcisismo ciancicato per mancanza di evidenza politica nell'ambito della PDL. Quando lui parla di immigrati, vota agli immigrati, di coppie di fatto, di etica, si capisce bene che non ci crede neanche lui e lo dice solo per irritare la Lega. E poi soprattutto le correnti sono un grosso ritorno al passato, una grossa macchina che serve soltanto a far perdere tempo al Parlamento, come è accaduto nel secolo scorso con la vecchia DC. Quindi per me è una persona che si sta costruendo un grosso futuro da perdente, da successo, con le proprie mani. Grazie a Luca. Luca esprime un atteggiamento che secondo i più dei sondaggisti, ma devo dire anche in molte delle reazioni che arrivano agli sms da chi si dichiara esplicitamente di centrodestra, sembrerebbe maggioritario, cioè coloro che dicono ha passato il segno, anche quelli che poi firmano la cinquantina di parlamentari ieri il documento Confini, se davvero dovessero dirci se sulla bioetica e sulle regole per la cittadinanza e gli immigrati sono davvero d'accordo con quello che sostiene il loro leader, in realtà scopriremo che non è così, e quindi pensateci bene, altrimenti fuori. Carlo dalla Spezia, sentiamo come la pensa Carlo. Buongiorno a tutti. Ci dica. Ma io sono abbastanza d'accordo con l'intervento precedente, dico che c'è una contraddizione nell'atteggiamento di Fini. La contraddizione è semplicemente dovuta al fatto che se si trattava semplicemente di manifestare il proprio dissenso, poteva tranquillamente farlo anche con forza, sì, all'interno del partito. La realtà è che nel momento in cui crei una corrente, vuol dire che allora non ti basta più manifestare il dissenso, ma hai nostalgia di leadership. Siccome nel PDL probabilmente tu non riesci ad averla perché c'è qualcuno che ce l'ha più di te in questo momento, è l'unica alternativa che hai è quella di creare una corrente. Quindi no, la manifestazione del dissenso è solamente l'alibi per nascondere il reale problema, cioè Fini non gli basta fare il presidente della Camera, Fini vuole essere leader di qualcosa e si comincia con una corrente. Ebbene Carlo, però si comincia con una corrente, ma altrimenti come si fa? Cioè se si prende atto che Berlusconi è il leader e se ne prende atto, però si ambisce legittimamente, essendo cofondatore di un partito, a voler di poi succedere una volta che Berlusconi non esprima più la leadership, come si fa se non restando dentro e articolando una corrente? Il problema è che quando non c'è l'abitudine alle correnti, perché un partito è carismatico, è un po' contraddittoria la faccenda. Allora, l'ultimo giro di opinioni, ricominciamo con Adolfo Urso, chiediamo un po' di trarre le file. Sarà possibile davvero darsi la grammatica e la sintassi del rispetto di un limite dalla parte e dall'altra, di Fini e dei Finiani, dalla parte vostra e di Berlusconi e dei suoi, e anche dei suoi organi di informazione, che non mi sembra così secondario, nel sapere misurare le parole essendo chiari con l'elettorato, chiari con le legittime ambizioni di ciascuno in campo, ma anche senza varcare quella soglia oltre la quale un boomerang diventa un autogol? Innanzitutto per rispetto della verità e della storia. Fini fu eletto in un congresso dove si confrontarono sei componenti a Salerno. Fu poi costretto alle dimissioni perché perse il congresso successivo a Rimini. Quindi Fini fu eletto dal congresso al punto tale che fu sconfitto in un secondo congresso per poi tornare alla guida del MISI e trasformarlo in alleanza. Quindi voi avevate una storia di partito tanto vero più, e articolato. Tanto più lo posso dire io che ero dall'altra parte. Certo. Non ero con lui in quella esattamente parte. Quindi Fini fu eletto in un congresso, sei componenti si confrontarono per quella scelta e poi fu defenestrato o sconfitto in un congresso successivo. Partito Democratico. Secondo, non è che l'ADC aveva le componenti, ma in ogni forza politica vi sono idee che si confrontano oggi in tutto l'Occidente, cioè nella Democrazia Cristiana tedesca, così come nel partito erede del gollismo. Pensiamo al confronto tra Chirac e Sarkozy, o se vogliamo pensiamo al confronto che c'è stato nel Partito Repubblicano Americano, cioè George W. Bush e McCain. Cioè il confronto delle idee non è che faceva parte soltanto della Prima Repubblica, fa parte di ogni Repubblica, di ogni democrazia, tanto più dei partiti occidentali che vivono, sottolineano, evidenziano il valore della libertà e quindi del confronto delle idee. Terzo, Fini lo ha detto con chiarezza e in quel documento, noi vogliamo portare le idee nel dibattito, altra cosa è fare le correnti. Innanzitutto ovviamente auspichiamo che il presidente del partito, che è anche il leader del partito, Silvio Berlusconi, il suo fondatore, accolga queste istanze nella direzione allargata ai gruppi che si svolgerà domani e quindi si possa uscire da quella direzione anche con un percorso pienamente unitario, perché questa è l'aspirazione di tutti, tanto più da chi, per esempio io, ho sempre lottato dal primo giorno di Alleanza Nazionale per la creazione di un unico grande partito di centrodestra, pagando un prezzo alto all'interno del mio partito, perché la maggior parte di coloro che erano per preservare l'identità, certo. E quindi detto questo, per rispondere, il confronto anche tra i radioascoltatori è interessante. Cristina porta delle argomentazioni politiche molto chiare. La Lega, sì. Ma credo che non sia sfuggito a nessuno che dopo il successo elettorale la Lega abbia reclamato il sindaco di Milano, abbia reclamato il candidato alle elezioni del 2013, abbia chiesto di governare le banche del nord, dove tutti sappiamo vi sono i risparmi del sud, perché non esistono più banche nel sud, sono state accorpate nel nord, i risparmi del sud e nelle banche del nord. Voglio dire, ci sono delle questioni che noi vogliamo definire affinché il Popolo della Libertà, il nostro partito, sia in ogni aspetto il partito guida della coalizione, un rapporto strategico che nessuno contesta, perché noi riteniamo fondamentale il rapporto con la Lega Nord, in una però situazione in cui il partito guida è il partito della nazione e il Popolo della Libertà, e questo è il confronto delle idee. Dicevo prima, c'è un programma elettorale che per noi è Bibbia, e ci impegniamo assolutamente, come abbiamo fatto in questi anni, nei prossimi tre, affinché sia realizzato. Ci sono poi argomenti che vengono discussi. Il primo, il radioascoltatore parlava del testamento biologico. Ecco, io per esempio, su quando sarò da fronte alla morte, vorrei decidere io come andare incontro a questo grande momento che ci aspetta, e decidere se per esempio avere o no l'accanimento terapeutico. Possiamo discutere di questo? Certamente. Ora, Adolfo Urso ha pronunciato da una parte una difesa che è una puntualizzazione sulla storia di AN rispetto a Forza Italia, e dall'altra dice: guardate che o ci diamo la forma e l'articolazione di tutti i partiti, oppure noi non saremo un partito occidentale, liberale, democratico. Secchi, alla fine questa contraddizione su cui finiva il tuo primo intervento esploderà, o c'è un modo di risolverla secondo te? No, se resta così non si risolve. Esplode. Sarà un problema grande per la legislatura, parliamoci chiaro, non facciamo Alice nel Paese delle Meraviglie, non parliamo della creazione di una corrente in un partito organizzato in correnti, questa non è la DC, è il PDL ed è un'altra cosa, non si chiama neppure partito, come tutti certo. Sapete, si chiama Popolo della Libertà, e non a caso non si chiama partito, neanche la Lega non a caso si chiama partito. Infatti. Nessuno nella stagione nuova della politica vuol chiamarsi partito. Il Partito Democratico si chiama partito, guardate com'è ridotto, è un disastro. E quindi sarà l'esplosione inevitabile. Per forza un'esplosione inevitabile. Io sono molto preoccupato per gli esiti della legislatura, perché attenzione, qua noi andiamo incontro a un triennio in cui o si fanno un paio di riforme e non parlo di quelle istituzionali, certamente, ma di quelle economiche. Non devi convincere me. Lo so bene, perché io do la priorità a queste. Nella mia testa ci sono solo e soltanto in questo momento le riforme economiche, e aggiungo, sono solo nella testa degli italiani. Esattamente. Ho mandato un cronista al mercato l'altro giorno. Altro che riforme istituzionali. Ma che riforme istituzionali? La gente vuole aprire le imprese in un giorno, vuole sgravi fiscali, vuole un fisco misura d'uomo, vuole una lotta all'evasione più seria. Guardate che il cittadino è molto più intelligente di quanto pensi il palazzo. E su questo fermo il direttore del Tempo, che ci ha consegnato uno scenario nel quale, se si va all'esplosione, il conto verrà presentato alla fine innanzitutto al governo. Quindi pensaci, Silvio, perché l'autoazzoppamento è il peggior ribaltamento, perché avviene con le proprie forze, per manifesta incapacità. E su questa conclusione, una trasmissione iniziata 21 aprile, Natale di Roma, un saluto a Roma e all'importanza che ha avuto nella storia d'Italia, non sempre positiva, ma per molti secoli un bel faro di cui non vergognarci, tranne che poi in quel ventennio lì. Ora, grazie anche in regia a Filippo Aureggi, Alessandro Marco Tulli in redazione, Linea Generale Radio, appuntamento a domani.